Aspetta, però, sei con questa antenna qua, invece con che segnale arrivo? Lascia perdere. E invece con questa qua, con che segnale arrivo? Sta accordando Massimiliano, adesso inizia a uscire il fumo a San Francesco. Lo senti sotto accordando? Ciao Vittorio, blocchetti! Ora, ora, ora, vediamo adesso, aspetta che faccio il corno, un attimo. Ciao Vittorio, buonasera. Sì, buonasera, SWL. Oh, guarda un po', se è cambiato qualcosa, ora, perché non t'accordo. Completamente, c'ho una secrezione nasale, paura. Vabbè, comunque 9, antenna stai usando tu, Walter? C'ho un'antenna a polarizzazione confusa. Io con la vantola non vado bene per lui, perché neanche con la direttiva, perché lui è proprio in quel tratto che c'ho la collina qua che va un po' più su e mi copre. Non è la posizione adatta, questo mi fa piacere, che perché se tu sei arrivi niente o niente uguale o forse leggermente più su, perché conosco anche quello strumento e ovviamente lo strumento di quell'apparato non può dare un'indicazione precisa, ma un'indicazione sommaria dell'illuminazione del bar graf. Questo mi fa piacere, perché da tutte le altre parti dove sono invece libero per sentire delle altre ramellate. Massimiliano, appunto, comunque l'importante è che lo crepo bene. Allora, io sto usando la Mantova 1, non è un'altra antenna, ho la Windom e con la Windom arrivo basso. Ma infatti è allucinante, pensa che lui la segnale migliore con questa è la Delta. Guardi, faccio un passaggio con la Mantova, l'ho già provata. Questa è la IAG 4020. Questa è la IAG 4020. Oh, la IAG 4020. E questa è la Mantova 1. Questa è la Mantova 1, Mantova 1. Quanto è con la Mantova 1? Sì, ma comunque stiamo facendo la prova in 10 metri, sì, è sempre una prova, ma non vuol dire niente, perché lui è qua, è troppo vicino. Bisognerebbe vedere, adesso se invece viene fuori, adesso sposto l'antenna, se invece viene fuori qualche inglese, così vedi che cosa succede, così ci facciamo due risate con il segnale che ti dà l'antenna con la tua mantova, e te l'ha rotto lì, lo dico io. Security X10, Linea Island, Sea Frequency, Italy Sugar, Zero, Kilo, Echo Bravo, Secure 10, No Direction, Secure England, Italy Sugar, Zero, Kilo, Echo Bravo, M Group from Sardinia Island, Echo Union 024, Iota Number, Echo Union 024, Interesting, Echo Union 024, Iota Number, Echo Union 024, Sardinia Island, Italy Sugar, Zero, Kilo, Echo Bravo, M Group in Sardinia, call Secure. Ce l'hai un'antenna sui 1200 con la terza banda? No, antenna 1200, non c'ho l'apparato adesso dei 1200, cioè c'ho il palmare e l'apparato ce l'ho fuori in assistenza. Perché guardato sì, TS2000? Ho avuto un problema di scarica elettrostatica. Vabbè, col palmare già lo senti lo stesso, il segnale. Vabbè, riesci a impostarlo? No, ma devo fare un casino, devo andare a cercare il cavo dell'antenna, non viene bene. Vediamo un po', metti lo spot sul cluster e vediamo se abbocca qualcuno. Stasera ci abbiamo fatto due risate, c'era anche GOP e Claudio qua, facendo due chiacchiere, poi sono affiorati a fronte. Ma questo là non entra, non ce la fa, non c'è niente. Già lo so, io ero in macchina, vi ho sentito. Lo so, ma non c'è propagazione. Lo so, però in vicinanza ti faccio il vento, però in vicinanza quei livelli busco, lo so, ma tu volevi fare la prova a Massimiliano e ti disintegro. Per adesso metti sul saccoccio anche questo, poi quando entrano loro buscherò, lo so già, ma poi li organizzerò anche lì, non ti preoccupare. Staccala qua Massimiliano, perché spengo, perché sono lontano da tutte le radio col TS2000. Italy Sugar 0, Kilo, Echo Bravo, Secure 10, IF 0, KED, Iota Reference, Echo Union 024, Secure, No Direction, IF 0. ok, IBM Group from Sardinia Islands, and your reference Echo Union 024 CQ. Ciao Massimiliano, ci sentiamo. Ciao Massimiliano, buonanotte, ci sentiamo. Vediamo un po', lo spot prova a mettere. Prova a mettere lo spot e vediamo cosa succede. Ciao Vittorio. Che spot Marco, che sono lontano dal computer anche, mi sto mettendo a tornare qua, ci metto la metto però vado dall'altra parte perché tanto non c'è niente, in 80 è pieno di americani e di giapponesi, sono qua che non c'è niente. Vittorio, fai 40. Lui non può, indipendentemente da dove sei, lui non sopporta che se gli avevi i miei siano superiori, boh, no, è possibile. Ah no, no, qua da parte mia non è possibile perché è tutta roba sperimentata. La roba che tiene, soffre il silenzio. What is your call? Italy Sugar, 0 Kilo, Echo Bravo. My name is Marco from Sardinia Islands with my friend near my home. Italy Sugar, number 0 Kilo, Echo Bravo. Here you call. Italy Sugar, 0 Kilo, Echo Bravo. No copy. Sorry, no copy. QSB, your modulation, but no copy, please repeat again. Italy Sugar, 0 Kilo, Echo Bravo is my call from Sardinia Islands with the group. Please repeat several times your call sign, over. Sud America, ci sono, li sento, ma non è comprensibile. Vediamo che differenza c'è fra la Delta e la IAC. Ma la sorte che troppo bassi sono, troppo bassi. Vediamo un po', c'è la gente lì, Aitana, in your direction, con